9 in punto, la versione di Oscar. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Si potrebbe andare tutti quanti allo zoo comunale. Vengo anch'io. No, no. E c'è andato D'Alema, c'è andato. C'è andato e ha detto che non si ricandida. Non si ricandida D'Alema, ragazzi. Festa, Mortaretti. Poi ha detto però, attenzione che se vince l'altro mi ricandido. Di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Vengo anch'io. No, tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe andare tutti quanti ora che è primavera. Vengo anch'io. Beh, adesso però lo dice anche l'Espresso che Fini con la casa a Monte Carlo è nei guai. E com'è? E quando lo diceva tempo fa i giornali di Berlusconi erano da mettere al muro. Adesso lo dice anche l'Espresso perché è buon giornalismo. Che fa adesso il presidente della Camera? Alza il sedere e se ne va? Oppure non se ne va? Non se ne va, non se ne va. Vengo anch'io, no, tu no. Ma perché? Perché no? Si potrebbe poi sperare tutti in un mondo migliore. Vengo anch'io. Ma il mondo migliore è quello in cui il presidente Monti va ieri a Lanci e dice: vi ho brutalizzato, sono un brutalizzatore, ho estirpato il cancro finanziario. Quale cancro finanziario ho estirpato? Continua a farci dei provvedimenti fiscali che hanno la retroattività, mentre gli sgravi arrivano tra anni. Poi, voglio dire, uno che ammette di essere un brutalizzatore forse dovrebbe dire: c'è qualche reato del codice penale che mi riguarda. Sto scherzando, però attenti al linguaggio. Anche Monti pensa che le elezioni si avvicinino, evidentemente. Si potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale. Vengo anch'io. No, no. Per vedere se la gente poi piange davvero. Allora, non andiamo a nessun funerale oggi, giovedì 18 ottobre, sempre più tardi perché grazie al cielo c'è molta pubblicità su questa rete, noi siamo felici ma dobbiamo essere per questo più rapidi. Questo giovedì, auguri a chi si chiama Luca, naturalmente, e prima di arrivare al tema del giorno, che è un tema in linea con le complicazioni pubbliche dell'Italia, consentitemi qualche riflessione su questo provvedimento che riempie i giornali da molti giorni e che viene annunciato con un'enfasi strombazzatoria, alla quale, come è giusto, bisogna dare un tributo, però sempre con l'attenzione che da parte nostra è dovuta a voi, cioè quella di leggere poi che cosa c'è scritto davvero nelle norme e tentare di spiegarvele. Sto parlando della misura anticorruzione, quella che da mesi è stata invocata da tutti coloro che associano giustamente le brutture della legislazione penale in materia agli anni di Berlusconi, se cioè i fatti suoi, e dicevano: ma è possibile mai che noi ancora non riusciamo ad avere una norma in recepimento di una direttiva comunitaria sulla corruzione che non ci faccia fare pessime figure in Europa di fronte ai mercati, di fronte agli investitori che non si fidano della giustizia a pezzi, dell'altissimo tasso di corruzione italiana, eccetera, eccetera, eccetera. Allora, questa norma che per paradosso si vota su forzatura del governo nello stesso giorno in cui apprendiamo, per esempio, ma se ne occupa solo un giornale, che in Sicilia si assumono altri 209 consulenti valutatori arruolati a 200 euro al giorno per valutare i progetti finanziati dall'Europa, perché le strutture tecniche della regione Sicilia non sono minimamente in grado, la Sicilia che è in bancarotta e noi non accettiamo per finta che il bilancio della Regione Sicilia non vada in bancarotta, malgrado sappiamo che i 17 miliardi di suoi residui attivi siano infondati. Questo per dire, questo è lo stesso Stato che poi dice facciamo la legge sulla corruzione. Allora, vista la legge sulla corruzione, io vi invito ad approfondirla, lo faremo in una puntata. Ci sono delle cose che con la lotta alla corruzione c'entrano assai poco. Per esempio, per le imprese sarà una nuova mole di aggravi, perché viene istituito il responsabile anticorruzione per ogni impresa, il quale diventerà contabilmente, civilmente e penalmente responsabile in caso altre figure dell'impresa incappino in reati come quelli di cui si parla alla misura. Un maxi responsabile della 231 per la corruzione. Attenti, vi faccio i miei auguri a trovare un manager che si becchi questa responsabilità, perché come ovvio basta che un collega a sua insaputa faccia tutto che lui ci va di mezzo e paga. Questi sono i metodi per lottare alla corruzione? Non credo. Poi, cos'è la corruzione tra privati? La corruzione tra privati consentirà a ogni pubblico ministero, in caso in cui vi sia uno scambio di interessi, c'è scritto, che generi nocumento all'impresa, di aprire un procedimento. Attenzione, se un manager paga una società interinale per sostituire manodopera in caso di crisi aziendale e c'è un PM che dice che questo genera un documento al patrimonio umano dell'impresa, si ricade esattamente in questa fattispecie. Lo dico apposta, però non mi è molto chiaro che cosa voglia dire questa corruzione tra privati. Quanto poi a una delle categorie centrali di questo disegno di legge, quello che è intorno al scambio improprio di interessi, cioè lo scambio di influenze, ecco, bisognerà vedere che cosa voglierà dire, perché nella legislazione italiana non vuol dire assolutamente niente. Al contrario, per i signori magistrati invece, che si tentava di impedire rimanessero fuori ruolo per anni e anni, cioè ai ministeri, c'è la possibilità di rimanerci per altri 10 anni. Questo per dire come mi pare che sempre siano un po' due pesi e due misure. La faccio finita qui, perché naturalmente non voglio apparire una voce unilaterale. Quanto ai tanto strombazzati politici condannati per reati di questo genere e che non vanno ricandidati, vi faccio notare che anche il governo scrive che c'è una delega per un anno a normare su questo, quindi significa che alle prossime elezioni questo provvedimento tanto strombazzato per impedire i politici condannati per corruzione nelle liste, invece ci restano nelle liste. Allora, attenzione, che l'Italia è sempre un paese in cui bisogna guardare che cosa c'è scritto nelle cose quando te le vendono come risolutrici. Allora, detto tutto questo, andiamo ai nostri ospiti di oggi, che sono qua in studio con me, che io ringrazio, che sono per così dire due ospiti che ci racconteranno attraverso la loro storia due facce di questa Italia seduta sui talloni, per così dire, per non usare un'espressione un pochino più brutale, da molti anni, e da molti anni il prodotto potenziale del nostro paese scende, oltre che per il fisco, la pace dilapotatore dello Stato ladro, oltre perché c'è la crisi del credito, oltre perché sono diventati tutti cattivi pagatori, a cominciare dallo Stato ladro, per una serie di ragioni che hanno a che vedere con come è organizzata la pubblica amministrazione, come è genialmente capace di autoprodurre tante di quelle norme il cui effetto è stare fermi. E da una parte c'è la storia di una persona che non vuole star ferma, ma vi descriverà a quali kafkiane complicazioni va incontro la sua volontà di non stare ferma. Dall'altra c'è un'altra persona che invece racconta come, stando a cavallo, per così dire, di due rive dell'oceano, tenta di far entrare in Italia alcuni di quei principi di cui avremo molto bisogno per crescere più rapidamente. I due ospiti che sono qua in studio sono, per la prima storia, per così dire, Luca Asberto, che io saluto e ringrazio. Buongiorno, grazie a te Luca. Buongiorno. Ecco, e per la seconda Fabio Fraticelli. Buongiorno Fabio. Buongiorno. Allora Luca, cominciamo a raccontare, facci capire un secondo come e perché uno che aveva un posto a tempo indeterminato, quindi di quelli che in Italia tutto sommato per come vanno le cose neanche te la passavi male, a un certo punto decidi di dire vabbè, questa roba non mi soddisfa più, voglio aprire un'iniziativa imprenditoriale. Come mai? Ma allora, io devo dire che sono stato dipendente per 6 anni di un'università italiana, e per 7 anni anzi. In questi primi 6 anni ho avuto una vita lavorativa splendida, facevo quello che mi piaceva, mi davano la possibilità di, credo, esprimermi al meglio. Nell'ultimo anno questa situazione è andata gravemente in crisi in maniera progressiva al punto da essere diventata intollerabile, proprio brevissimamente. Sono successe una serie di cose, tra cui anche accuse di aver determinato un disavanzo nel bilancio, che poi ho dovuto dimostrare di non aver fatto, di anzi aver creato tagli di spesa per 1.200.000 euro. Ma la cosa più grave è che vedevo che i miei colleghi, sia amministrativi sia accademici, più validi, non venivano, le loro carriere non venivano in alcun modo promosse, non veniva riconosciuto il loro merito, perché l'università è vittima di una serie complicatissima di regolamenti che pretendono di disciplinare qualsiasi aspetto della vita e delle carriere delle persone, che però tradiscono completamente i loro fini, perché poi vengono utilizzati, applicati formalmente in maniera impeccabile, per far carriera ad amici, parenti, persone che nella mia esperienza non hanno merito. Questa cosa è diventata talmente pesante che io da un giorno all'altro mi sono dimesso. Non ho chiesto di essere tolto dalle mie funzioni, ho proprio ritenuto che non fosse più compatibile la mia mentalità con la struttura in cui lavoravo. Ti eri proprio rotto le scatole, insomma. Esatto, non volevo dirlo io, ma pesantemente. E quindi, a quel punto, rinunciando alle tutele del posto fisso, che cosa hai deciso di fare? E quindi a quel punto ho mantenuto degli ottimi rapporti con i miei ex colleghi a questo punto dell'università, alcuni di questi sono del centro ricerche e hanno avuto una serie di idee secondo me geniali. Una di queste è quella di aprire un bar un po' particolare, e quindi è alcune settimane che ci stiamo scervellando in business plan per vedere se la cosa sta in piedi, di quanto denaro ha bisogno per partire. E io, che ho un pochino più di esperienza imprenditoriale dovuta alla mia vita ancora precedente alla mia esperienza universitaria, ho subito detto: facciamo attenzione, perché sicuramente per aprire un bar ci saranno degli adempimenti burocratici che nemmeno ci immaginiamo. Qualche giorno fa uno di questi miei colleghi soci è stato all'Associazione Commercianti di Torino e si è fatto descrivere quelli che sono questi adempimenti. Devo dire che io ero già preparato a una cosa folle, e quello che leggo è più folle della follia che mi sarei immaginato. Allora, però qui bisogna che chi ci ascolta prenda un paio di minuti di pazienza, perché un conto è dire in sintesi è complicatissimo gli iter, altro conto è mettere davvero mano alla lista. Come vi ho detto prima del provvedimento sulla corruzione, bisogna sempre guardare davvero in che cosa consistono le cose al di là delle formule sintetiche, e quindi adesso ci facciamo un viaggio in questo mondo della surrealtà degli adempimenti che sono richiesti e previsti per un matto che nel nostro paese decida di mettersi in questo particolare settore, che è quello dei bar. Matto perché, attenti che nella crisi ovviamente del nostro sistema distributivo, commerciale eccetera, non è così facile, perché basta che voi vi chiediate in giro nelle città italiane, gente cortissima di cassa che ha finito la finanziabilità del circolante e che non ce la fa malgrado lavori 18 ore al giorno nei bar, è piena. Quindi bisogna, diciamo, averci testa per pensare di riuscirci con il calo dei consumi che è in corso. Ciò malgrado, andiamo alla lista delle complicazioni. Vuole sul serio? No, bisogna, perché bisogna che chi è a casa capisca, perché non lo sa. Allora, autorizzazione amministrativa per somministrazione alimenti e bevande, autorizzazione igienico-sanitaria, e qui ci sono quattro tipologie. La più semplice, comunque, richiede comunque almeno un soggetto che abbia una specifica formazione o una laurea in professioni sanitarie, oppure 2 anni di esperienza nel campo della ristorazione, oppure deve fare un corso di 100 ore. Pare, da come leggo io la norma, che questo soggetto debba essere sempre presente nel locale, quindi uno non basterà. Poi bisogna fare il corso di formazione e il piano HACCP. Poi bisogna costituire la società, aprire la partita IVA, iscriversi alla Camera di Commercio. Per stipulare il contratto di locazione bisogna verificare l'idoneità, avere una perizia e il famoso calcolo, quello che mi inquieta di più, il calcolo di monetizzazione dei parcheggi, di cui forse se avrò tempo parlerò dopo. Poi ci vuole la domanda di autorizzazione amministrativa per la somministrazione di alimenti e bevande, con la nomina appunto del responsabile. Mentre si effettuano i lavori nel locale, bisogna fare una notifica igienico-sanitaria, la denuncia TARSU, che è la tassa sui rifiuti, la richiesta della licenza UTF per distribuire alcolici e superalcolici, la redazione di un piano di autocontrollo sul trattamento dei cibi, come effettuare le pulizie, e questo è necessario averlo dal primo giorno di apertura, se no ovviamente sono multe. La certificazione secondo la legge 81/08 sulla sicurezza sul lavoro. Poi bisogna iscriversi e pagare alla SIAE, bisogna avere il permesso e pagare per le insegne luminose. Poi bisogna, giorno di apertura, inoltrare la comunicazione di inizio attività alla Camera di Commercio, iscrivere all'INPS anche i soci lavoratori, iscriverli all'INAIL, oltre che i dipendenti ovviamente, comunicare all'INPS e all'INAIL i dati relativi ai lavoratori. La cosa di tutta questa follia, ritengo, che mi ha più stupito è la cosiddetta monetizzazione dei parcheggi. Cioè, il comune, nel nostro caso di Torino, presume, forse anche correttamente, che l'apertura di un esercizio pubblico di questo tipo determini un aumento del flusso del traffico e quindi ritiene che vadano aumentati i parcheggi. Fin qui si potrebbe anche capire, vorrei che li costruissero. Quello che ci costringe a fare è pagare, nel nostro caso, tra i 50 e i 60 mila euro, ripeto, si parla di un bar tutto sommato piccolo, per fare la cosiddetta monetizzazione. Si è sbagliato, non ha detto 50 o 60 mila euro, si è sbagliato. No. 50-60 mila euro. Assolutamente sì. Bontà sua dà la possibilità di rateizzarli in 5 anni. Vero. A condizione che ci sia una fideiussione bancaria. Ah, ecco. Ora, lei mi insegna che per farsi dare una fideiussione da una banca bisogna mettere lì i soldi, quindi tanto vale pagare subito, così almeno non si pagano le commissioni della fideiussione. Su quest'ultimo punto io dico, siamo quattro ragazzi tutto sommato giovani, se riusciamo a fare sta roba daremo fondo a tutti i nostri risparmi. Capisco anche che il comune voglia farci su due soldi, perché capisco che aumenta il traffico, ma devono farseli pagare da subito? Cioè, non possono almeno aspettare che l'attività sia partita, sia funzionante, e poi a quel punto fare un prelievo di imposte su un'attività che funziona invece che farseli dare fin dall'inizio. Devo dire francamente che la mia indicazione che io ho dato ai miei soci dopo aver letto tutto questo è stata quello: andiamo a aprirlo in Svizzera o in Francia, che sono a 100 km da Torino. Non so come lì sia la situazione, ma la cosa che mi inquieta veramente e che questo temo che non sia un vicolo cieco in cui siamo finiti che riguarda solo l'apertura del bar, ma credo che sia l'esempio di tutto un sistema normativo e di come accoglie un'impresa. E quindi non credo che dopo che avremo fatto tutta questa follia noi potremo navigare tranquilli. Ma oltre ai problemi di mercato a cui lei accennava prima, continueremo ad avere a che fare con uno Stato, un Comune, una Regione che respinge l'impresa, che ritiene che gli imprenditori siano tutti dei farabutti da controllare in qualsiasi modo per evitare che facciano danni. Io però continuo, ma il calcolo dei 50-60 mila euro per, diciamo, il computo delle proiezioni parcheggi aggiuntivi dovuti da flussi del vostro bar, voi ve lo siete fatto controllare? Cioè è veramente così? Sì, abbiamo parlato con l'Associazione Commercianti di Torino. Ci sono aree diverse, chiaramente più è centrale più il costo è elevato, ma noi vogliamo aprire questo locale in centro perché per il tipo di locale riteniamo che in periferia non funzionerebbe, e nella zona più centrale, per, mi pare che abbiamo fatto il conto su 90 metri quadri, sono 70.000 euro, e per la zona meno centrale, la cosiddetta A2, sono sui 55.000, mi pare. Quindi il conto è esattamente asseverato ed è quello. Certo. Io non so se vi eravate mai resi conto voi a casa che per prendere la licenza di un bar, aver permesso eccetera, bisogna pagare preventivamente liquidi i posti parcheggio dei flussi aggiuntivi che il comune prevede. Uno può dire che c'entra, come i proprietari di un'area immobiliare sono tenuti a cofinanziare gli oneri di urbanizzazione quando hanno la finalità d'uso del terreno che è a fini edificatori, altrettanto è no, mica tanto, scusate, no, non funziona così, non esiste che ognuno che apra un'impresa commerciale all'interno di un'area urbana attrezzata debba ripagare per flussi aggiuntivi, perché i flussi urbani vanno calcolati sulla potenzialità del sistema viario di affluenza dal centro e di percorrenza in centro, uno, prescindono dal fatto che ognuno che arriva per aprire un'impresa, rilevare magari una licenza eccetera eccetera, debba incrementalmente pagare, perché questo è un meccanismo attraverso il quale, come capite, l'ente pubblico si finanzia aggiuntivamente, ma è un'altra cosa rispetto alla potenzialità di flusso, che non è che si modifica se nell'unità di tempo tutti gli esercenti cambiano la licenza e ognuno che arriva contribuisce aggiuntivamente, capite? Cioè quello che approssimativamente può sembrarvi a casa una misura logica, se ci riflettete un secondo, è un puro canale aggiuntivo attraverso cui lo Stato ladro si rifornisce nelle casse di chi è così matto che vorrebbe aprire un'impresa, e lui arriva prima e dice: intanto paga me, poi si vediamo se sei così matto e glielo richiederemo a Luca se a questo punto la aprono qua oppure non se ne vanno da un'altra parte. Tenete presente che voi siete abituati a considerare che se ne vanno le grandi imprese multinazionali, se ne vanno i gruppi che fatturano almeno 80%, oramai se ne vanno anche chi vuole aprire. Avete capito? Stiamo parlando di gente che aveva un posto a tempo determinato, rinuncia, si mette insieme soci giovani e dice: apriamo un bar. Ma anche questo è mille volte più conveniente farlo oltre confine, quando c'hai un comune che dice: dammi 60.000 euro per la sola idea di traffico aggiuntivo. E questa è la prima storia. I messaggi in reazione alla storia che ci ha raccontato Luca Sberto su come chi voglia aprire un bar dopo aver rifiutato un posto a tempo determinato all'Università di Torino, dove ci sono amici e parenti, alcuni sono subito scattati dicendo: la figlia della Fornero, la figlia della Fornero, tra gli ascoltatori, non Luca, però vi ha fatto un bel elenco di pretese pubbliche. È scattata l'immediata reazione di chi dice, per esempio, ci sono due ascoltatori che ci segnalano come l'apertura di un negozio, prendere una licenza in un negozio in Germania, è costato più di 30 euro e in 48 ore tutto era a posto, con un unico sportello pubblico a cui si sono rivolti. E molti sono increduli naturalmente che ci siano dei matti che vogliono aprire dei bar, perché conoscono solo esercenti di bar che sono abbastanza disperati rispetto a quello che c'è da fare, ma comunque come immaginavo molti sono rimasti abbastanza allibiti di fronte alla lista di adempimenti. Allora, la storia invece di Fabio Fraticelli è un po' diversa. La storia di Fabio Fraticelli è la storia di chi, diciamo, testa dura come quella di Luca che abbiamo sentito prima, ma testa dura in un altro settore. Qui abbiamo a che fare con uno che, per una persona che rispetto agli standard italiani è quasi in fascia, 28 anni, capite che insomma abbiamo i ministri che a 60 anni sono giovani nel nostro paese, lui praticamente è appena uscito dall'asilo. Detto questo, Fabio passa un po' di mesi l'anno altrove, e adesso ci spiegherà perché, in che altrove, in cosa ha trovato in questo altrove e che cosa da questo altrove tenta di portare in un paese in declino. Sì, l'altrove in questione sono gli Stati Uniti d'America, dove ho avuto e ho tuttora l'opportunità di lavorare con il National Park Service, che è il sistema unico di parchi nazionali americani. In particolare io ho la possibilità di lavorare con l'Acadia National Park, che è un'unità delle 397 che costituiscono questo sistema. Il mio lavoro come ricercatore in organizzazione aziendale consiste nello studiare e nel proporre modelli teorici che aiutano il management del parco, quindi chi prende le decisioni, a scegliere fra diverse opzioni in termini di portfolio tecnologico. Negli Stati Uniti in questo momento c'è un dibattito molto forte relativo a come utilizzare o come non utilizzare la tecnologia per migliorare l'esperienza di visita di chi va in un parco nazionale. Giusto un dato: ogni anno 270 milioni di persone transitano sulle aree protette degli Stati Uniti, quindi stiamo parlando di qualcosa che genera un indotto molto forte. Lì negli Stati Uniti ho avuto la possibilità di lavorare con un team di circa 20 persone, nel quale ho portato appunto il mio contributo. La cosa che mi sono portato a casa invece è una questione di metodo. cioè il motivo per il quale io mi sono potuto trasferire e tuttora ho la possibilità per alcuni mesi l'anno di fare ricerca e ricerca intervento negli Stati Uniti è perché 3 anni fa una persona che ovviamente era nella possibilità di farlo, cioè un direttore appunto della Cheyenne National Park, mi ha dato credito, mi ha dato fiducia durante una conversazione molto breve di pochi minuti, durante la quale ho avuto la possibilità di esporre le mie idee e al termine della quale questa persona mi ha detto: Fabio, perché non vieni con noi e facciamo qualcosa insieme? Allora, perché dico che vorrei riportare questo metodo qui a casa? Perché ho visto quali potenzialità ci sono quando si semplifica il processo attraverso il quale un innovatore, un inventore, sia giovane o meno giovane, decide di mettersi in gioco al punto di investire sulla propria idea. E mi sono detto: perché non portare questo criterio, questo principio, mettendo in comunicazione i giovani universitari che ogni giorno incontro per il mestiere che faccio con imprenditori di aziende più o meno grandi, con più o meno esperienza, che siano disposti, come fece con me 3 anni fa, Sheridan Steele, che era questo direttore, siano disposti a ascoltarli e dargli una possibilità. E per questo, tra le altre cose, ha scritto una lettera a un imprenditore illuminato, poi ne ha parlato il Fatto Quotidiano. In questa lettera all'imprenditore illuminato che cosa gli dici? Cerco un imprenditore che sia talmente coraggioso e che guardi talmente in avanti, cioè che sia così illuminato da voler superare il pantano in cui si trova probabilmente in questo momento, in cui la situazione è molto difficile, facendo un'introduzione di entusiasmo, di forza, di coraggio, di passione, di idee, di innovazioni, che è più probabile trovare in chi, giovane come me, ancora deve scontrarsi con tutte le difficoltà della vita e quindi ancora forse ha un più basso grado di cinismo e un più alto grado di entusiasmo. Facci piano, perché stai attento che con l'età poi si impara il realismo. Il realismo e la tenacia è la vera arma con cui si sconfigge la letale incrostazione tra eccesso di burocrazia e gli effetti che questa provoca anche nell'ambiente imprenditoriale, l'ossidazione delle menti, per così dire. Quindi ci vuole un giusto mix, perché sennò cadiamo nel rottamatore nuovista. Ci vuole un giusto mix tra l'entusiasmo e l'esperienza, perché i serpentacci, per farli fuori, se usi l'entusiasmo, possono morderti quando meno te l'aspetti. Quindi ci vuole un po' di tutte e due, per così dire. Allora, alcuni iniziano a dirci: guardate che dipende da città a città, amministrazione a amministrazione, cambiano gli ostacoli. Sentiamo cosa ci dice, per esempio, Giuseppe, che telefona da Mantova. Prego, Giuseppe. Giuseppe, ci sei? Sono Fabrizio, buongiorno. No, lei è Fabrizio, ma io sentivo Giuseppe anche. Io sono in linea, ma non sono da Mantova. Ma non è da Mantova, vabbè, allora è un errore della nostra dormiente assistenza di regia. Allora, Giuseppe da? Da Treviso. Da Treviso, da Treviso, perfetto. Io sono l'assessore delle attività produttive. Ah, vede, non lo sapevo, quindi non sono sospettabile di passare in linea politici. E signor assessore, no. Lei che ci dice? Io le dico che praticamente in Treviso stiamo abbracciando le liberalizzazioni come promosse anche dal governo e quindi stiamo adeguando i regolamenti e le procedure a un sistema di liberalizzazione che prevede anche una semplificazione normativa notevole e quindi chi vuole ad aprire un bar, per esempio, non deve incorrere in tutte le complicazioni che ci sono a Torino, che avete illustrato prima. Cioè non gli fate pagare i posti parcheggio per i flussi aggiuntivi anticipati e liquidi? Allora, noi quello non glielo facciamo fare perché ovviamente noi prevediamo degli standard di parcheggio, ma per quanto riguarda i bar non sono monetizzabili. Ovviamente ci sono delle condizioni urbanistiche da rispettare perché non possiamo rompere le scatole ai residenti. È un altro paio di maniche, certo. Esatto. E quindi non si possono trasformare in denaro. Bisogna che l'esercizio commerciale abbia in effetti il parcheggio a disposizione o comunque sia nella zona una disponibilità di parcheggio. Va bene, allora Giuseppe si è fatto lo spot da solo, era da Treviso, avevano passato da Manto, era l'assessore. Ai trevigiani confermare quello che ci dice l'assessore, che loro si stanno portando avanti con la semplificazione delle pratiche e che non chiedono quello che invece Luca ci ha spiegato essere richiesto a Torino. Che dice Fabrizio da Mantova invece? Lui almeno spero che sia da Mantova. Fabrizio, chiami da Mantova? Chiamo da Mantova. Oscar, buongiorno. Sì. Faccio i complimenti per la trasmissione e speriamo che il nostro, lo faccio anche mio, movimento fermareildeclino.it possa avere successo. Speriamo. Dunque, niente, io sono un piccolo imprenditore, ho una piccola attività di autotrasporti, pensavo per mio figlio, visto che sono riuscito a non fargli fare la mia attività, di trovargli anche un'attività come quella di cui stavamo parlando stamattina, appunto di aprire qualche attività di esercizio pubblico. E in questi giorni stavo guardando appunto cosa poteva servire o non servire tramite internet e così, e stamattina casualmente ascoltando, come ascolto sempre la sua trasmissione, mi sono imbattuto proprio in queste notizie, diciamo. Sì. E queste notizie mi confermano quanto già immaginavo. Quello che mi chiedevo è come fanno i nostri amici cinesi che, soldi alla mano, entrano, comprano, aprono e chiudono da un giorno all'altro senza nessun allora problema. Fabrizio, questo tema che sollevi tu in realtà è un tema che ai messaggi che arrivano al 349-238-6666 in tantissimi stanno sollevando, e devo dire, ci aggiungo anche che mentre i più si pongono esattamente lo stesso quesito che adesso giriamo a Luca, che hai posto tu, ma come fanno loro che aprono e chiudono, ce n'è uno di SMS che mi ha incuriosito tra i tanti che sostengono questa tesi, che aggiunge un altro elemento. Dice: caro Giannino, ho un'attività nella zona periferica di Milano riccamente popolata da extracomunitari, e in questi ultimi tempi rimango tristemente sorpreso nel vedere molte persone, anche giovani, delle loro comunità tornare indietro per sempre nel loro paese. È un segnale, non me ne voglia, non me ne vogliono loro, né pensi male chi ascolta, un po' come i topi che scappano prima che la nave affondi definitivamente. Quindi c'è chi dice scappano oramai anche le comunità che pure non hanno queste difficoltà ad aprire esercizi commerciali, apri e chiudi. Che dici, Luca? Loro com'è che ce la fanno secondo te? Me lo sono chiesto, ovviamente. La risposta che mi sono dato è sostanzialmente che o qualcuno è più bravo di noi, devo dire che siamo tre laureati in discipline, tra l'altro vicino all'economia, quindi un minimo ne capiamo, oppure in Italia c'è sempre l'opzione di operare nell'illegalità, che non vuol dire necessariamente crimine, anche illegalità amministrativa. E quindi, ma questa è una cosa che riguarda tutta la mia esperienza lavorativa, c'è una sorta di permissivismo verso una forma di concorrenza sleale che consiste nel fatto che alla fine chi non rispetta le regole, finché non viene scoperto, vince rispetto a chi le rispetta. A chi rispetta ex ante, perché questo è un effetto delle complicazioni normative. Guardate che si crede che siano i fondamenti della legalità. Un apparato la cui complicazione e il cui onere di adempimenti è così rilevante, ha l'effetto opposto, perché complica tanto la vita per la compliance spontanea che in realtà agevola chi aggira la compliance spontanea. Questa è una risposta anche che do di solito a chi dice che gli italiani sono atavicamente incapaci di essere costruttori di ordinamenti civili per adesione spontanea. Io non lo credo affatto, credo che noi siamo in buona misura vittima di una storia pubblica recente di Stato moderno unitario che ci ha tanto purtroppo messo sotto i piedi per gli ordinamenti che ha messo in piedi nel tempo sotto diversi regimi, che ha finito per incentivare l'economia delle relazioni, di che ti mando io, la parentela, la filiazione politica, il fatto che poi la pubblica amministrazione è costruita per autonomia di centri di costo che diventano autonomi nel decidere il procurement secondo meccanismi relazionali, politici, amministrativi, eccetera eccetera. L'effetto di tutto questo è indurre anche il privato a disaccoppiare efficienza e trasparenza, perché la maniera per raggiungere l'efficienza in un ordinamento così irto di ostacoli non è la trasparenza, ma è la relazione, capite? Quindi le due cose secondo me vanno un po' insieme, senza voler per questo giustificare i fenomeni di corruzione e di illegalità pubblica, però sono intrecciati con uno Stato così obeso e così discreto. Tra i tantissimi SMS che arrivano, ce n'è uno di un consigliere municipale di Roma che scrive: caro Oscar, sono consigliere municipale di Roma che ne ha viste veramente tante e troppe. Per esempio, un barbiere per uomo che si rifiuta di aprire le donne perché diventare acconciatore comporta troppe lungaggini burocratiche. Oppure parliamo delle licenze di somministrazione a punti che ci sono a Roma e degli effetti che suscitano. Ecco, ci sono veramente tantissimi dalla città italiana. Sentiamo Carlo da Verona che pensa. Carlo, prego. Sì, pronto, sono Carlo, buongiorno signor dottor Giannini. Buongiorno. E buongiorno ai radioascoltatori. Volevo solamente farle presente questo. Io abito in un comune in provincia di Verona, vicino a Villafranca, dove vi è l'aeroporto, e avendo una casa molto grande avevamo chiesto al comune, e avevano dato praticamente tutte le possibilità, di aprire un asilo per bambini, visto considerato che c'è una richiesta enorme. Quindi voi volevate integrare l'offerta pubblica con un asilo per bambini, messo in piedi da voi. E cosa è successo? Esatto. A questo punto però è intervenuto un signore, se si può definire in questo modo, il quale è seduto stravaccato in ufficio tecnico, mi ha detto: è il parcheggio? Il parcheggio di che? Il parcheggio delle vetture per i bambini? Ma scusi, il bambino lo porterà la mamma, lo porterà il papà, lo porterà il nonno, lo porterà lo zio. Cioè, a questo punto, allora, io non ci ho neanche più visto perché ho un carattere molto dolce, facendo riferimento ad Alberto Sordi, ho strappato un biglietto in cui diceva va a quel paese, gliel'ho consegnato, ho girato le spalle e me ne sono venuto via. Quindi cui, diciamo, anche lei di fronte al parcheggio, un po' come Luca col suo bar eccetto a Torino, si è dovuto fermare, per così dire. Mi sono fermato avendo tutto a disposizione. Mi si immagini che abbiamo una casa da 600 metri quadri, per dirle, cioè vi era assistenza, vi era tutto quello. Va bene, che si poteva fare. Va bene Carlo, peccato, perché effettivamente integrare l'offerta di sostegno per la conciliazione dei tempi è una delle cose attraverso cui raddrizzare la nostra curva demografica, per così dire. Io sono curioso però di tornare da Fabio, perché nella fine della sua lettera all'imprenditore ideale c'è una critica evidente verso il sistema imprenditoriale italiano, che io considero fondata, perché verso la chiusa della sua lettera, che è lunga, e dopo avergli spiegato all'imprenditore ideale i vantaggi dell'aprire idee nuove, c'è una frase che mi ha molto colpito. Dice: sì, ti sto chiedendo di investire i pochi soldi che ti rimangono, perché siamo consapevoli che questa è la situazione delle imprese italiane, il tuo tempo, i tuoi impianti, la tua distribuzione commerciale, il tuo know-how, solo per finanziare un'intuizione di un giovane che sceglieremo insieme. Voglio un volto, un nome, un indirizzo, cui mandare quell'80% di studenti che hanno un'idea ma non un fottuto canvas con cui spaccarla in quattro di fronte al guru di turno. È un'illusione o c'è qualche cosa che può nascerne? C'è qualcosa che può nascerne, se no probabilmente non l'avrei scritto, ne sono assolutamente convinto. C'è una portata visionaria in queste righe. Come sempre, bisogna averla. C'è forse sì, un po' di sogno, ma in fondo credo che i sogni non abbiano mai fatto più di tanto male a nessuno, quindi perché no? Io ritengo si possa fare, e ritengo che si possa partire con un caso, un precedente. Sì. Creare un precedente per testare questa idea, che è un'idea di riportare al centro la relazione fra le persone, e quindi far incontrare un mentore con un giovane che ha bisogno appunto dell'esperienza di qualcuno che sta più avanti con gli anni, e metterli insieme. Allora, quest'idea del mentore, contatto umano al centro della relazione d'impresa e dell'innovazione da una parte, e dall'altra totale assenza di umanità da parte dello Stato e delle sue regole. Luca, il bar ce lo andiamo ad aprire fuori. Io mi dispiace dirtelo, ma credo che questo sia lo sviluppo.